zuppa, ci sei? Attento Natalino. Beh, briciola! Beh, briciola! Su che andiamo! Su, su! Ora! Ora! Ora! Ora! Allora c'ha lo smith che non va bene, perché non è possibile. dici da 9 watt a 300 watt ti dia un segnale di differenza, no? Non è giusto. 300 watt, se tu hai messo 300 watt e stanno adesso, come stai dicendo, un sacco la popolazione non si capiva nulla, proprio sono incapibile, diciamo, le frasi, capito? Eccolo, perché volevo regolare la potenza dell'apparecchio. Così è. Roger, cappa, non so cosa dirti, boh. È così. Satura. Ma all'apparecchio quanti watt le stai dando? 4 o 5 watt. Io sono 3 watt di modulazione, già se ne va oltre. Comunque qua il mio power lo metto a un quarto, perché prima ero rafforzato, perché non mi ricordavo che era l'apparecchio senza usare l'apparecchio. Mi era completamente dimenticato e dopo l'ho riabbassato perché non andava bene. E adesso mi sto dando circa 3 watt di entrata, mi pare. E pare che vada meglio, vai, ok. Guarda adesso come sta andando, si è pressato lui. No, adesso va bene adesso. Adesso metto il proprio della prega, vediamo. Sempre bene, ma guarda, lanci 3, 4, 5. No, hai aumentato appena di saturazione, poca roba per si è di nuovo risolta la saturazione, appena, ma già è capibile, diciamo, la radio però è appena satura. E la regolazione giusta è questa, così. Guarda, lanci 3, 4, 5. La regolazione giusta, la puoi lasciare così, ma appena di saturo ce l'hai, poi se capita che non ci credi, chiede a un altro cosa vuoi dire. Qua da me arrivi così, niente, appena perdo il saturo, nulla, vai, però la popolazione diciamo è compressibile, vai. E anche tu sei compresso, beh, si sente che sei compresso, non è che poi se hai attacco lineare è normale che la compressione si sente. Beh, quello non l'ho messo in dubbio, lo so che si sente sì, ovviamente si sente, no? Per forza si deve sentire, non lo so, ma dipende anche dall'amplificatore pure. Se prende anche l'amplificatore, se siete amplificatori, no, questo gioco qua non lo faccio assolutamente. Grazie, con la testa sì. A te ti mangia anche la radio, un po'. Non ho capito, cosa? Che un po' ti mangia la radio. Ah, boh, non lo so. E quando manca, già ritorno, se vuoi dire. Ok. Ok, dai, va bene, questo qua ha pagato anche un sacco di soldi, ma ha preso, diciamo, una bidonazza. Vabbè, scusa, com'è? C'è la miglia dove dico io e boh, me la comprerò una propria parte, se è possibilità, se non c'è andare così. Ok, perfetto. E nulla. Che apparecchio sto usando? C'è la suona discreta. Quanti watt sto usando? Ok, circa 150 watt. No, che apparecchio? L'apparecchio, cosa? Che apparecchio stai usando? Ah, se lo so prima, forse non ho capito, sto usando l'8001 della Midland. E quello è buono come apparecchio. Ho pagato anche stato di soldi questa parete, non ho pagato 2 lire, mi pare che avevo pagato 250 euro, è usato pure sul macro esatto, però è inutile fatto, in ultima condizione, dai, 250 euro l'ho usato, me l'ha portato un amico, e niente, perché è nuovo improbabile, ok, tutti usati, vabbè, può anche trovare di nuovo, ma forse è fondo di magazzino. Basta controllare, diciamo, internet. Boh, no, non so, aspetta. Stanno vendendo oltre il prezzo che potevano vendere. Comunque non è tanto, io c'ho affari che usano 500 euro l'uno. Ah, ognuno ha, diciamo, le sue apparecchiature. Io c'ho questo, cioè niente, ok. che è un bel apparecchio, l'ho preso perché mi piaceva. E niente, l'apparecchio che va bene, nulla. Ok, è così, Ehi, vabbè, interessate che ci faccia sentire dopo, non è un problema. Ok, adesso staccato, sto uscendo, sto uscendo liscio, ora, ora, in modulazione, adesso sono andato 4 qua, ok, 3 vasti, notizia 4, adesso liscio, vedi un po' se calato di nuovo la, il segnale, a te cambio. Adesso sei 5 e con disturbi di propagazione pure. Segnale 5, da 9 c'è da 5. Quattro stampiani, facendo 4 punti, ok. Va bene, va bene. E adesso aspetta. Sentiamo lo stesso. Perfetto. Poi, c'è un po' di propagazione, più o meno, che propagazione. Per dire, propagazione si sposta con destra, questa roba, diciamo, bassa e non molto chiara, quindi, in fase di arrivo forse di propagazione, ma niente, momentaneamente non c'è risposta di scenariato, non vado a metti con questo riguardo, però è tutto, diciamo, tutto con destra, vai. Comunque adesso di radio c'è molto più chiaro, molto più chiaro di prima, anche se c'è rumore di propagazione c'è più chiaro di prima. Ovviamente un attaccato è logico, non sai che è la potenza, magari dipende anche dall'applicatore, se lo vedi. Dipende anche dall'applicatore, non ho pagato 300 euro. 300 euro. L'avevo pagato, ho preso una tassa per meno. Ottima e autentica pilonata. Perfetto, dai, niente, come microfono sto dando, diciamo, un microfono abbastanza, diciamo, buono, da capo, no? Sto dando la Q, la V900, ok, Roger, sei capo. Sì, l'ho avuto anche io quel microfono lì, però con la mia voce non andava bene, lo sa. Ma non lo so. Per la timbrica della tua voce, tu evidentemente tu non avrai regolato, diciamo, bene, non lo so, questo pare che sia funzionato bene, perché questo qua era un po' abbinato un altro apparecchio, però non andava bene, ci spostava continuamente, allora se vai fuori dalle scatole, ha fatto l'abbinamento qua, veramente me l'ho fatto fare l'abbinamento. Mi costava il capo, mi ha fatto una fattina di euro per fare l'abbinamento a questo qua, per la V900 con l'ultimo euro. Ok, però va benissimo qua e quindi lo sto tenendo qua, non lo sposto più da qua, perché da questo apparecchio mi creava problemi, si spostava continuamente, nulla da fare, allora l'ho messo qua e va benissimo, quindi lo lascio qua. Ok. Comunque non è amplificata la radio, come mai l'è abbassata? Non lo so, io parlavo di qua, non li ho toccato, non lo so, perché dopo si connette su cavoli, dopo Maria, qua il segnale, diciamo, non è male, il segnale di 6, però di radio, boh, era tipo, appena, lontanissimo, non ho capito proprio il tuffo. Vabbè, comunque non so se mi stai sentendo, se mi stia sentendo, comunque, se mi sente, saluto di Maria, però saluto il tuo, sono Gianni, ok? A te cambia. Gian Maria, lo senti a Urani? Che deve aver chiuso. Il segnale era 6, quasi 7, però con una modulazione negativa, Appena, ma piccolino, lontanissimo. Non lo so, confronto altri periodi del tipo, ma va bene qua, ma stasera proprio negativo, vedete, comunque non so da fare, mi passo, non lo so, comunque la radio è negativa. Vabbè dai, ora io ti saluto, ho acceso solo per far scaldare un po' gli affari, perché non c'è nessuno in questo periodo, quindi ogni tanto li accendo, là. Beh, io questo era un bel po' fissato per essere acceso, per la verità non lo c'è il discorso. E stasera ho deciso di metterlo in funzione per farlo un po', diciamo, lavorare e via. Ma adesso anch'io mi metto un po' di X e sarò più vicino, là. Da poco ho spiego tutto. Ok, grazie dei controlli, grazie delle chiacchiere, ci sentiamo, dai. Buon proseguimento di serata, di domenica e spero tu di coordinare a tuo rispettivo corretto. Ciao ciao, anche per me, con Rick, ciao, adesso anche con Rick, ciao ciao. Ciao Dani, ciao. Vabbè Billy, su che andiamo. E dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Eh? Rigido. Rigido.